Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ai funerali di Fantozzi c'erano tutti i suoi colleghi superstiti. Si stringevano attorno alla vedova per cercare di consolarla. Sono sempre i peggiori quelli che se ne vanno. Abbiamo perso il nostro punto di riferimento verso il basso. Era facile sentirsi migliori di lui. Era un capro espiatorio per tutti noi. Mi sembra di averlo ancora qui davanti agli occhi, nel vigore degli anni. Che perdita! A tenergli compagnia nell'ultimo viaggio non poteva mancare l'affezionata compagna di tanti weekend, la sua personalissima nuvola da impiegato. È una mia impressione personale, me ne prendo tutte le responsabilità, ma chissà perché la morte di Paolo Villaggio non mette tristezza. Non mette tristezza per una serie di ragioni, per cui Paolo Villaggio ormai era altro rispetto a Fantozzi, è come se fosse la crisalide di una fantastica creatura che è impossibile che muoia perché è dentro ciascuno di noi. Noi tutti siamo Fantozzi, siamo stati Fantozzi, abbiamo momenti di fantozzaggine nella nostra esistenza, anche se abbiamo lo stigma del vincente impresso in lettere di fuoco sulla fronte. Comunque sappiamo perfettamente che in ogni remoto recesso del nostro animo si cela comunque il DNA del fantozzismo. O forse anche perché Fantozzi aveva perfettamente allucinato, costruito, immaginato la sua fine in questa morte di Fantozzi, morto schiacciato, non c'ha nemmeno la dignità di una bara, è una tavola gigantesca in cui lui ridotto a soglio, la frittella, una semplice ormai dissacrazione totale anche del rispetto del cadavere, che dà tutti il conforto del fatto che morto Fantozzi tutti si possono sentire nell'ultimo gradino della dignità umana, perché non c'è più lui, il suo punto di riferimento verso il basso. E questo probabilmente è il grande contributo che ha dato alla nostra miserrima umanità Paolo Villaggio, dandoci la possibilità di avere un punto di riferimento, di creare, immaginare, dare corpo, immagine, sostanza a quello che di più vergognoso ci annichilisce in vari momenti della nostra vita, nei momenti di sconforto, di debolezza, di dolore, di incapacità di gestire le proprie emozioni o di dover subire necessariamente le angherie del nostro prossimo. Questa mattina vorrei invitare il pubblico a darmi delle sincere testimonianze di fantozzismo delle loro esistenze. Man mano ricorderemo Fantozzi attraverso mai gli spezzoni che sono immortali, e non è un termine retorico, sono veramente immortali. Io ho cominciato a conoscere Fantozzi che facevo il liceo dai salesiani, di nascosto sotto il banco, non facendosi vedere dal prete, noi leggevamo il libro delle storie di Fantozzi, ancora non era un film, era un libro, e oggi a 60 anni, 62, forse 63, nemmeno più tengo il conto, ho ancora esattamente quella traccia della mia esistenza, dei punti di abiezione nei quali spessissimo, un'infinità di volte nel corso della vita, delle epoche della propria vita, degli anni, uno si identifica. 800240024, oggi abbiamo il coraggio di confessare il Fantozzi che è noi. Madrina del Varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare, grande azionista della società. Una grande giornata. Ecco contessa, a lei. Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti vien dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa, vadi! Ecco, contessa. Un'altra bottiglia? Sì, prego. Riparte da 46 metri la Serbelloni Mazzanti vien dal mare. Rivadi, contessa, ma più centrale. Ah. Oh. Fantozzi, questa volta. Adesso ditemi con grande sincerità, nessuno si senta offeso, escluso. Quale altro esempio c'è nella storia della nostra immortale letteratura, della nostra poesia, della nostra rappresentazione del mondo attraverso immagini, con film, con speciali televisivi, con inquadri? Qualcosa che immediatamente riporta l'immagine soltanto a sentirne la sonorità. Ricordo ancora la prima volta che andai a vedere il primo film di Fantozzi, finalmente avevamo la rappresentazione di ciò che leggevamo e capimmo, immaginammo e cominciammo a allucinare anche noi la contessa Serbelloni viene dal mare, Mazzanti Serbelloni viene dal mare. E la scena del Varo, la scena in cui veniva mixata questa sorta di volontà di ricostruire una sorta di allure nobiliare, qualcosa che apparteneva ad epoche che più non esistevano, nella grigia logica impiegatizia che è fatta di numeri, è fatta di meschinità, è fatta di limacciose maniere di sopravvivere in un mondo che sembra il sottobosco dell'umanità, ma è il sottobosco che poi diventa classe dominante, diventa pensiero dominante, diventa filosofia di vita percorsa. Angelo, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Io volevo raccontare un aneddoto mio che mi è successo da ragazzo, che mi sono sentito Fantozzi in quell'occasione. Era la seconda volta che andavo a sciare, la prima volta ho sciato che ero un ragazzino, la seconda volta avevo 18 anni, e con degli amici che mi hanno portato, io dissi già questa sarà una giornata da ricordare. Infatti prendemmo l'ancora, eravamo in Svizzera, a un certo punto sentimmo un muoversi dell'ancora e guardavo il mio amico dicendo ma cosa stai facendo? E lui disse ma sei tu, e in un attimo ci siamo trovati in un burrone a fianco che si è spaccata l'ancora. Sì, lei quando dice ancora cosa intende? No? Io mi manca qualche passaggio. Praticamente adesso forse non ci sono neanche più, sostituivano un po' i seggiolini, solamente che stavi quasi con gli sci toccavi la pista, diciamo. Lo ski lift, quell'affare si mette fra le palle e si tira su. Non proprio. L'ancora praticamente è proprio una forma di ancora, ci si siede in due con la sbarra in mezzo tra i due. Gli impianti di risalita. E poi cosa è successo? Praticamente si è spezzata l'ancora, siamo volati di fianco, c'era proprio un burrone, non era profondissimo, però abbiamo fatto un bel Quindi volo. Una scena perfettamente fantoziana. Sì, ma non era finita. Il bello è che sono finito su di lui e lui con lo sci mi ha aperto la prima parte dei pantaloni, rimaneva solamente la lana quella bianca e poi il fodero interno. E allora lì ho detto vabbè, adesso cosa facciamo? Abbiamo messo le cinghie, quelle che tengono uniti gli sci, e abbiamo risalito un attimino questa vallata e la pista che passava era la pista nera. Io non sapendo sciare, si può immaginare la scena, a sinistra avevo le rocce che uscivano, la pista era abbastanza stretta, a destra c'era burrone. Allora a un certo punto gli ho detto a mio amico senti tu vai giù, io in qualche modo arriverò. Niente, un po' di volte andavo e tentavo, mi puntavo con gli sci verso sinistra per frenarmi perché avevo un po' paura, poi a un certo punto mi sono stufato, ho detto senti vada come vada, mi sono buttato giù a mo' di lancio, esattamente come nel film di Fantozzi quando si trasforma in valanga. Esatto. Sono arrivato giù e fino a quasi alla fine rimaneva una curva dove c'era tutta una fila di persone sulla curva, mi avevano visto che non sapevo sciare e allora cominciavano a scenare di fermo. Sono arrivato giù, io ero bravo a pattinare, mi sono ricordato come frenare quei pattini da ghiaccio e praticamente li ho lavati e sono riuscito a scendere l'ultima rampetta. I miei amici mi aspettavano, sono arrivato lì senza, avevo, immagini, all'epoca sono andato con i jeans e cose così, avevo i capelli alzati congelati. Quindi è arrivato esattamente lei, diciamo, a visto improvvisamente, profeticamente rappresentata nella famosa discesa, mi sembra che si trattasse di Cervinia o Cortina, adesso non so bene, non ricordo bene, di Fantozzi, quando ebbe la malaugurata idea di andare in Settimana Bianca, il suo episodio. Quindi lei è una dimostrazione concreta che esiste una maniera comica di elaborare delle situazioni terribile angustia, come è accaduto a lei. 800 24 00 24, dedicheremo questa mattina alle nostre esperienze fantoziane, quando l'essere fantoziani ci assotto dal fatto di essere tremendamente sfigati. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese. Ah. C'è pure qualche grande nome. No, non li conosco. Però l'incognito, l'incognito è la trovata del locale. Qui non ci sono nomi, solo numeri di telefono. Ah, ha capito? Ci si sceglie... Un drink, signori. Volete bere? Sì! Ma... Beh, noi abbiamo portato la Prunella Ballor. Ma che dite? Che ci portiamo? I cibicotti da casa? Ci porti tre scotches, grazie. Cos'è che beviamo, Calboni? Tre scotches. Beh, io intanto mi butto, eh. Scotch. Sì? Signora 10, potrebbe concedermi un appuntamento, diciamo, al centro della pista fra, diciamo, 5 secondi? Ok. A presto. Avete visto? Su, coraggio, provate anche voi. Quante volte ho parlato della scena dell'ippopotamo qui con l'ottimo Sanson. Abbiamo eviscerato attimo per attimo questi passaggi epocali, gli impiegati che fanno la botta di vita, le mogli sono lontane, se ne vanno al night che ancora rimane una sorta di elemento fuori del tempo, di trasgressione, di sesso, di piaceri proibiti. Ci vanno portandosi la bottiglia dell'amaro dietro per risparmiare, e cercano in qualche maniera di riuscire a compiere quello che è un sogno irrealizzabile, il sogno dell'adulterio, il sogno dell'uscita dalla regola. Lo fanno in maniera talmente approssimativa e rozza che poi alla fine non combinano niente. Quello un po' più scafato di loro, Calboni, il puttaniere, in effetti si avvarrà anche dei pochi risparmi di tutti i suoi colleghi, sarà l'unico che riuscirà a portarsi a casa, un povero puttanone di quarta fila. Ma in tutto questo oggi è possibile ritrovare degli elementi che siano un po' meno datati, perché questo è un po' un sogno tanto anni 60-70, quando ancora esisteva al night, al centro. Se oggi volessimo riportare il sogno di trasgressione impiegatizia su un piano più coerente, il fantozzi oggi è quello che si affanna sulle chat e che cerca signore e signorine che poi sono le sue corrispondenti nel mondo femminile, gli propone virtuosismi al di fuori di ogni regola sui quali si è ispirato guardando i siti porno, gli propone inimmaginabili avventure per i pezzi erotiche, poi non ha il coraggio di incontrarle perché poi sa nella sua miserrima condizione fisica esteriore di non essere mai all'altezza di quello che promette, quindi rimane esattamente come Fantozzi e Filini con la bottiglia d'amaro in attesa dei taxi fuori del night a bocca asciutta eternamente. Vediamo se possiamo anche riportare su un piano di contemporaneità il fantozzismo, che è rimasto congelato in una epoca aurea che è il periodo in cui è stato prodotto, è ancora attualissimo come stimolazione interiore, ma bisogna forse ricollocarlo nel mondo che noi stiamo vivendo in questo momento. Sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. E niente, chiamavo perché così, stavo ascoltando Radio 24 e parlavate di queste situazioni fantoziane. Io ne ricordo una dove sono stato così oggetto di scherno da parte di tutti i miei amici per anni e anni e anni e anni. E te la racconto. Siamo qui per ascoltare. Cioè. Niente, avevamo finito una presa di calcetto, 18-19 anni, così ne ho patentati, e risalgo in macchina per andare a casa, anche un po' sudato, non avevo fatto la doccia, e niente, rimetto i piedi in macchina, la macchina non parte, per cui così baldanzosi, attacchiamo i cavi per cercare di trainarla fin tanto dove iniziava la discesa, in modo tale poi da farla ripartire in discesa. E l'unica cosa è che attacchiamo i cavi, sì, la macchina è in folle fin dove inizia la discesa, e lì invece di mettere la seconda metto la prima. Il cavo era attaccato, cioè sulle 500 vecchie che c'era quella specie di paraurti di metallo, sì. Era attaccato lì, per cui appena ho messo la prima strap, vabbè, ma quella la 500 c'ha un gancio sotto fatto apposta per essere trainata. Sì, ma sai, non lo sapevo. E quello si è staccato come dalla bianchina di Fantozzi. Esatto. Si è staccato completamente. Si è staccato completamente la ruota di scorta che rotolava in discesa, la batteria da una parte, e già il pensiero andava a mio padre che si sarebbe incazzato come una bestia. Poi Giovanni, questo è perfettamente fattoziano come, come scenario, come, meraviglioso, perché poi ci sono tutti gli elementi, andiamo ricostruendo, l'utilitaria che si smonta, l'utilitaria orribile, l'utilitaria che nonostante quello comunque svolge la sua funzione, diventa anche l'oggetto dello scherno, che riflette anche la condizione miserabile del suo proprietario, l'utilitaria che non funziona, il sentirsi sempre al centro di una situazione vergognosa. Però mi dai atto, Giovanni, che il fatto che sia esistito Fantozzi, tu puoi dire una situazione fantoziana e non te ne vergogni, la racconti con leggerezza, altrimenti noi non avremmo un punto di riferimento, avremmo delle aree, un bellissimo ricordo per cui so di dover rimanere sempre umile, guarda, perché ti può capitare qualunque cosa in un qualunque momento. Sì, anche questo, già questo è un impegno etico che non fa parte del nostro stile, però diciamo capire che in realtà nel fantozzismo siamo tutti uniti, perché anche la persona che apparentemente sembra imperturbabile, inattaccabile, tetragono ogni attacco di ridicolaggine, alla fine poi gli scappa la puzzetta davanti agli altri e quindi diventa fantozziana anche lei. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno. La tua esperienza fantozziana. Chiamo da Rimini, ricordo niente, la prima regata a cui presi parte, un amico mi disse di così l'abbigliamento da regata, di presentarmi con una, in tenuta da sci, con una salopette da sci, mi presentai con una salopette da anni 90. Ma perché te lo disse? Scusa, per farti qualcosa di male? No, perché per iniziarmi a questa attività di regatante mi disse: prendi su quello che trovi, va bene anche la salopette da sci. Niente, io mi presentai con questa improbabile salopette da sci e con scarpe da basket e una regata competitiva al largo di Ravenna. Gli altri come erano vestiti, per capire la differenza? Rigorosamente incerata, tutti la regata. Esatto, la regata, io con questa improbabile tenuta e tutti mi guardarono allibiti, ma chi è questo, vestito esattamente da Alberto Tomba, e presi il largo di Ravenna, e ricordo ancora anche il nome, può essere richiamare qualche nome fantozziano, che c'era appunto, dovevamo giro di boa dietro una piattaforma che si chiamava Angelina. E ricordo che da lì partì poi, tra l'altro, una stagione mia di regate, fu veramente tragica come regata, perché fu la regata con il vento più forte, ricordo 21-22 gradi, mare marrone, e ebbi per tutto il tempo paura di morire, tornai in porto con questa... Ma perlomeno non avevi freddo e non ti bagnavi con la tuta da sci, almeno quello. Tornai con la tuta da sci distrutta, con tutta l'imbottitura nelle terghe, nel sedere che usciva, e una giornata veramente tragica. Ancora quando incontro questi reduci di questa tragica regata, mi guardano in modo improbabile, ricordano così questa disavventura. Ecco, ti stai fantozionamente anche dissolvendo come ascolto, però abbiamo già messo assieme dei punti comuni. Comunque, il non essere adeguati, il non essere adatti alla situazione, il sentirsi fuori posto, spesso ci sentiamo fuori posto, spesso siamo invitati in delle occasioni in cui chissà perché sembrano che tutti siano a loro agio e noi siamo fuori posto. Ecco, questa è la situazione fantoziana. Qual è il merito di Villaggio, ma anche degli autori che hanno lavorato con lui? Hanno dato a questo una dimensione epica, una dimensione romanzesca, una dimensione che potesse essere un punto di riferimento quasi liturgico. Improvvisamente sappiamo che è qualcosa che può esistere nell'ambito delle varie declinazioni dell'umanità, e quindi, siccome diventa una cosa fantoziana, quasi ne abbiamo orgoglio, quasi la raccontiamo con piacere. Scusi, questa è la sua stanza? Certo. Vabbè, ma le 100 piante di ficus e le poltrone di pelle umana, è il grande acquario nel quale nuotano dei dipendenti sorteggiati. Voci, caro Fantozzi, messe in giro dalla propaganda sovversiva. Un sorso d'acqua, un tozzo di pane. Ma, scusi, Conte, io mangiare con lei? Ma certo, che differenza c'è fra me e lei? Ma abbia pazienza, ma come, che differenza c'è? Non mi vorrà mica dire, signor Duca, che siamo uguali io e lei? Voi siete i padroni, gli sfruttatori, noi invece siamo gli schiavi, i morti di fame. Oh, ma caro Fantozzi, è solo questione di intendersi, di terminologia. Lei dice padroni e io datori di lavoro. Lei dice sfruttatori e io dico benestanti. Lei dice morti di fame e io classe meno abbiente. Ma per il resto la penso esattamente come lei. Come? Altezza, come? Io, come lei, sono un uomo illuminato e sono convinto che a questo mondo ci sono molte ingiustizie. Quello che piacerebbe capire dalle persone che mi ascoltano, se vogliono dare un contributo a queste riflessioni, è la mutazione del fantozzismo. Ancora il mega direttore a cui vengono attribuite caratteristiche quasi divine appartiene a una società datata. Ancora c'era bene o male il ricordo delle classi sociali, oggi completamente assorbito, omologato, omogeneizzato. Non esiste più l'idea della classe impiegatizia tale come la rappresentava Fantozzi. Però devo dire, se qualcuno di voi ha l'amenità di frequentare verso l'ora di pranzo, ma anche in tarda mattinata, lo dico perché nel ventre romano è molto facile che questo accada, bar, baretti, barettini, luoghi di ristoro, mini market, nei dintorni di grandi uffici, grandi palazzi della burocrazia, ancora i discorsi delle persone che vanno lì, le signore con il portafoglino sotto braccio, gli uomini in giacca e cravatta un po' sudaticci, i discorsi sono questi, tutti parlano sempre del loro lavoro, del loro unico punto di riferimento, dell'unico universo degli dèi, delle classi privilegiate e oltraggiate, di quello che è la loro vita impiegatizia, la loro vita professionale, e tutti hanno qualcosa da dire del vicino di scrivania, del piccolo caporale di giornata che ha in mano la chiave della loro felicità. Ancora il fantozzismo esiste, serpeggia, è ben identificabile nella società, ma quello che vorrei fare questa mattina, se voi mi aiutate, è dargli una versione più vicina alla contemporaneità. Come oggi è possibile ai giorni nostri, oggi uscendo di casa, sentirsi ancora Fantozzi? Attraverso quali chiavi? Qualcuno ha qualche suggerimento, qualche esperienza? A tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta, patata. Patata, apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado, Non capisco. Faccio l'accetto svedese. Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4 7, 8, 1. Nella conca! Svedese! Muovi! Fantozzi, è lei? Fantozzi, è lei? Angela, buongiorno. Angela è morta, talmente fantozziana che è caduta. Roberto, Fantozzi, è lei? Sì, io sono assolutamente Fantozzi, nel senso che, tanto la saluto, Nicoletta, è un piacere parlare con lei. Però non ho potuto esimermi da telefonarle oggi, perché io lavoro per un'azienda italiana e volevo ricordare che Fantozzi lavorava... Non si esimi, non si esimi, vada avanti. Succede questo, noi dipendenti di questa azienda, tra l'altro è un'azienda anche abbastanza grande dimensioni, siamo obbligati a partecipare ad un torneo di calcetto, perché uno dei nostri dirigenti adora il calcetto, ma la cosa più grave, più fantozziana, è che noi siamo costretti a farlo vincere, quindi lui vince. No, mi spieghi come si articola, diciamo, questo perverso meccanismo, come vedo che non è cambiato negli ultimi 40 anni. Assolutamente. Per Fantozzi era la necessità di partecipare a delle estenuanti corse in bicicletta o giocare a biliardo, in questo caso per lei è fare il calcetto. Allora, questo è fissato... che io detesto, ma non solo io, molti di noi detestiamo. Ma c'è il filini la situazione, quello che raccoglie i nomi, organizza le partite? Sì, no, ma tutte le maschere di Fantozzi sono rappresentate all'interno della mia azienda e presumo anche di tante altre, quindi in questo sta la grandiosità dell'opera di Fantozzi e degli autori di quel film. Quindi non è cambiato assolutamente nulla, lei è costretto a giocare a calcetto? Nulla, l'unica differenza che intravedo è che la moglie di Fantozzi stava dalla parte di Fantozzi, lo aiutava in qualche modo. Mia moglie invece mi spotte e mi prende per il culo dalla mattina alla sera quando si avvicina il momento del torneo. Quindi c'è anche un aggravante, lì c'era, diciamo, una sorta di pietà, sì, una quasi necrofilia da parte della moglie, che alla fine raccattava sempre questo avanzo di umanità, lo riportava a casa, lo confortava, arriva al punto di permettergli... No, io invece l'ho messo in autorevolezza anche a livello familiare, perché mia moglie spesso mi rimpaccia il fatto, cioè tu stai zitto perché sei quello che fai vincere sempre il direttore. Ma come funziona? Come funziona l'organizzazione di far vincere il direttore? In questo modo, noi organizziamo annualmente delle convention e lì praticamente succede il fantastico. Ma chi è che dice fatelo vincere? Chi è che passa? Nessuno, questa è la follia, la bellezza di questa cosa, non lo dice nessuno, lo sappiamo, fa parte del nostro DNA. E quindi vuoi non vuoi, una volta per un calcio... Quindi siete tutti ormai schiavi di una sorta, sì, di imperativo interiore, sapete? E come si fa a farlo vincere? Si passa la palla male, non si tira in porta? Come funziona? Guardi, i metodi sono i più disparati. La cosa, diciamo, assurda è che non ci mettiamo d'accordo prima, perché è vietato anche parlarne, perché comunque, essendo tutti noi quadri, dirigenti, comunque gente che vorrebbe in qualche modo mostrare la propria autorevolezza, non può ammettere che quel pallone non l'ha preso perché non l'ha voluto prendere, quindi, oppure che quel tiro di rigore, quel rigore non c'era, ma nessuno ha protestato. Senta, ma c'è pubblico a queste partite infamanti di calcetto? C'è del pubblico? Il pubblico no, a parte il personale che gestisce il campetto, il pubblico siamo comunque dello stesso. Noi siamo. No, se lei incrocia semmai lo sguardo di disprezzo di sua moglie quando perde un passaggio. Sì, no, quello è una. E cosa dice sua moglie? Hai perso apposta, fai schifo, vergogna. Sì, praticamente sì. E applica il classico ricatto coniugale che in questi casi funziona sempre. Coraggio, Roberto, coraggio. Nicchi, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno agli ascoltatori. La mia esperienza è stata quando ero in barco con degli amici nel porto di Castiglione della Pescaia e avevamo un tender, che sono quelle imbarcazioni d'emergenza, sì, delle barche, e avendo l'acceleratore al contrario rispetto alla moto, mi sono trovato praticamente ad accelerare al contrario e a trovarmi a 90 gradi sulla barca del vicino. E impennata, quindi praticamente mi sono trovato. Ha impennato il tender, ridicola. Praticamente, sì. Invece di chiudere esatto, l'acceleratore, l'ha aperto, quindi si è impennato. Esatto, praticamente il tender si è messo impennato a 90 gradi, praticamente con io, praticamente che sono precipitato in acqua in una scena fattoziana, quindi mi fa ridere ancora oggi a pensare a quella scena lì. Comunque vedo che il frequentare l'imbarcazione, ad esempio, essendo impropriamente dei marinai da terraferma, è uno dei territori più pericolosi, perché già ha una sorta di vocazione fantoziana. Sentiamo Federico. Sì, buongiorno Nicoletti. Complimenti per la trasmissione. Allora, lei che ha di fantoziano da raccontare? Io di fantoziano ho parecchie vicissitudini, però prima facevo parte di un gruppo su Facebook espressamente ispirato a Fantozzi, dove si parlava solo di Fantozzi e dove tutti quelli che partecipavano a questo gruppo cercavano di applicare o comunque di abbinare esperienze di vita vissuta alle esperienze di Fantozzi, alle varie vicissitudini del nostro ragioniere. E quindi, a parte questo, perché vi ispiravate a Fantozzi? Cos'è che vi dava questo desiderio? Sono sempre stato un cultore di Fantozzi e lo considero un precursore dei tempi, perché i film di Fantozzi, a mio modesto parere, sono ancora molto attuali e trovano molte coincidenze con la vita reale, ma moltissime. E quindi però lei è solamente un cultore del Fantozzi come personaggio, non ha un'esperienza di vita legata al fantozzismo, si sente indenne al fantozzismo? No, assolutamente, sicuramente ho avuto anch'io le mie esperienze fantozziane. Ma non ha coraggio di raccontarle però. Vabbè, sentiamo Cristian, sei un pochino più esplicito. Cristian, buongiorno. Noto una cosa, fermo un attimo, buongiorno innanzitutto. Non chiamano donne, aveva chiamato una signora, poi si è pentita, se n'è andata. Il mondo femminile non è lambito dal fantozzismo, perché lì o la Pina o la signorina Silvani, sono poche le alternative, sono tutte e due molto tristi, ma quante signorine Silvani in realtà ci sono che stanno ascoltando in questo momento e non osano dirlo? Quante sono approfittate delle umidicce lussurie galleggianti o appena palpitanti dentro le grisaglie dei loro colleghi e stanno lì zitte e non parlano? Cristian, andiamo avanti. Buongiorno. Sì, l'ascolto. Io il massimo del fantozzismo lo provo tutte le mattine quando prendo l'autostrada in direzione Bologna e regolarmente ci sono praticamente incidenti non segnalati o segnalati in ritardo da tutti i prodigiosi sistemi di comunicazione che le autostrade hanno messo su nel tempo. E allora, non cogliendo lo spirito del tempo collaborativo, ho scritto più di una volta alla società Autostrade proponendo anche, come dire, delle modifiche, degli aiuti, insomma, dei contributi. È molto fantoziana questa volontà umarellica di intervenire positivamente. La cosa bella è che mi hanno sempre risposto quasi il giorno dopo, facendomi dei complimenti, dicendo che era tutto, che avevo dei grandi suggerimenti molto intelligenti, e poi non è mai cambiato nulla. Vabbè, lì avranno un risponditore automatico che a tutti i rompicoglioni che chiamano risponde nella stessa maniera. Ma entrano nel merito delle mail. Nelle mail suggerivo alcune cose rispetto al traffico notturno, eccetera, sconti per chi rimane magari in bottiglia, cose anche banali, insomma, che chiunque ha un minimo di attenzione al cliente. Sì, ma mi sfugge avere L'aspetto fantozziano di tutto questo, in questo suo rivolgersi alla grande organizzazione e avere anche la vergogna di essere ascoltato ma non seguito. Come il dialogo di prima, in cui è solo un fatto di terminologie, tu sei ascoltato, ti rispondono, ti fanno sentire importante per 5 secondi e poi nella tua vita quotidiana non cambia assolutamente niente e tu rimani fantozzi e loro il grande capo. Che è lassù, insomma, tutto lì. Questo allora, Cesare, velocemente. Cesare. Pronto, sono io, buongiorno, sì. Sono Nicoletti. Sì. Volevo raccontarle un aneddoto tipo fantozziano, no? Suo, sì. Io lavoro anch'io per una grossa società e che succede? Dovevo consegnare tutti gli anni dei bilanci, no? E dovevo andare da una dottoressa, no? Allora cosa facevo? Che è il suo capo praticamente. Esatto. Inserivo dei piccoli errori, no? Ortografici o qualche inversione di una lettera con l'altra, no? Poi quando io andavo al tavolo di questa dirigente gli presentavo il bilancio e questa verificava e diceva: Cesare, ma come hai fatto a fare questo errore? E io: dottoressa, guardi, ci ho messo 2 giorni per fare questo bilancio, lei in 2 secondi mi ha trovato l'errore. E questa. Vabbè, il suo è un servilismo scientifico. Cioè, lei riesce a programmare un'occasione di essere vituperato dalla sua capa, svergognato, umiliato, creando artificialmente dei piccoli errori per dare lei questa possibilità. Rasenta un masochismo patologico. Complimenti. No, qua veramente va oltre. Fare apposta degli errori per permettere di essere maltrattato dalla capa. Già, questo è qualcosa che rasenta il sublime. Ci fermiamo istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. C'è poi questa, pianta! Mi dia anche mezzo chilo di zucchero. Ma certo, sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, quello di Splentito e Splentenda. Uè, buongiorno. Si è fatti cavallo a dubbla faccia. Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti il filone? So 3 chili e lascio, ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Guarda, se torna dentro il pomeriggio ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti. Allora torno nel pomeriggio. Alle 5, va bene? Per lei il filoncino speciale c'è sempre. So diabolico nell'amplezzo. Sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la tonnata. Era lui, era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni. Certo che quale potrebbe essere il punto di riferimento erotico che fa sì che la signora Pina per un attimo si distogliesse dalla sua mesto calvario coniugale che dura per tutta la vita, con Fantozzi che ce l'ha piccolo, con Fantozzi che è sessualmente inesistente, con Fantozzi che è perennemente malato, che c'ha il colpo della strega, con Fantozzi che si permette persino di avere dei palpiti carnali nella sua fase di senescenza, che dilapida tutto il suo patrimonio nei famosi numeri erotici, e la moglie, per mantenere questo vizio del marito, diventa telefonista erotica, cioè l'inarrivabile scena in cui Fantozzi si attizza dal salotto parlando con una telefonista erotica che è la moglie, che dal cucinino gli risponde e lo tiene su di giri. Caterina, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a voi tutti. No, io mi riferivo al fatto che lei si lamentasse che non ci fossero donne. No, non c'è una signorina Silvani che mi chiama, che mi dica sì, sono ecco, io. No, no, io mi sento più, mi sono sentita molti anni fa, quando sono entrata a lavorare presso una multinazionale molto grossa, della quale forse non posso fare il nome, Fantozzi, nel senso che io Fantozzi non l'ho mai guardato, mai visto, non mi è mai piaciuto fino ad allora, nel senso che mi sono ritrovata con l'ingegnere capo e mi sono ritrovata per la prima volta a dover timbrare il cartellino, che per me è stata una cosa molti darebbero, si venderebbero la sorella per timbrare un cartellino, non disprezzo. So, adesso sì, certo, io avevo un altro tipo di esperienza, per cui per me Per lei era un passo indietro, lei era convinta che già doveva entrare, diciamo, nell'area manageriale, quindi si è sentita umiliata. Avevo già un'esperienza abbastanza di un certo livello, per cui entrare a timbrare il cartellino e andare in mensa con 500 dipendenti è stato un po' scioccante. Ecco, lì ho scoperto il mondo di Fantozzi. Ecco, devo dire. Ma si è affrancata da questo stato, è rimasta, diciamo, nel gioco impiegatizio per tutta la sua vita? Sì, ma non ho più desiderato timbrare il cartellino dopo. O sono stata così fortunata, o sono salita nella scala. Sì, però è un po' diverso, perché nel rapporto di vessazione, visto dal punto di vista di una donna, è diverso. L'uomo viene umiliato dai uomini, in quanto esiste una sorta di bullismo maschile che si perpetra nel mondo del lavoro. Per le donne sono rapporti diversi. La donna, se diciamo, viene considerata, lo dico nell'orrenda declinazione del maschilismo impiegatizio, se al di sotto del limite della media trombabilità viene umiliata, massacrata, mortificata, non considerata. Se è lievemente trombabile viene ricattata, quindi è un altro tipo di posizione quella che ha una donna, che il fantozzismo non l'ambisce, perché sempre dal punto di vista di Fantozzi non si mette mai nei panni di una donna. Carlo, buongiorno. Buongiorno, l'ascolto. Io volevo parlare della convention aziendale, che è, come dire, il playground perfetto per, come dire, tutte le reminiscenze fantoziane della nostra... Questo perché? Perché si può essere irrituali quel tanto che viene consentito per mettersi ancora più nelle condizioni di essere umiliati. Sì, devo dire che si arrivano a fenomeni di esaltazione mistica, proprio quelli che lui prova alla fine, quando viene accolto dal grande direttore generale, no? E volevo citare questo episodio fantastico, tutta la pletora di dirigenti sul palco con un facilitatore che dichiarava addirittura la disponibilità a ricevere delle domande dal pubblico, fatto di circa 200 persone. E quindi queste domande, che sarebbero arrivate tantissime, sarebbero state selezionate e solo le più significative sarebbe stata data. Hanno scelto quelle più leccaculo, naturalmente. No, erano domande anonime, è stato tenuto a precisare questa cosa, che le domande sarebbero state ricevute in forma anonima, selezionate, e sarebbe stata data una risposta. E la domanda selezionata, la prima, è stata: possiamo provare a trovare termini diversi da superiore e sottoposto nella descrizione delle gerarchie aziendali? E io veramente ho toccato il cielo con un dito. Ma hanno risposto a questa domanda? Certo, la risposta è stata ovviamente demagogica. Sì, ma oggi non si usa più superiore e sottoposto, riporto, si dice, è un suo riporto, si dice, è diverso, sembrava parte del suo staff, siamo nella stessa squadra, si usano dei termini molto più eufemistici, il superiore non dice mai di essere superiore. Sono il sepolcro imbiancato dietro al quale... Le prime linee, le seconde linee, i quadri, si usano altri termini, penso, nessuno lo dice. Cioè, il bastone nodoso e chiodato è sempre lo stesso che penetra l'inferiore, però viene trattato e è descritto in maniera diversa. Andrea, buongiorno. Sono io? Sì, Andrea, sì. Sì, ciao. Allora, la mia vita è uno spartiacque fantozziano, avevo 16 anni, quindi 26 anni fa... campo estivo con la parrocchia, e si giocava a pirulini sono le cerbottine, non so se hai presente. Sì, i conetti di carta, quelli lì. Esattamente. E allora azione di gioco in cui io, un po' più giovane degli altri, volevo fare l'eroe. Ma con lo spillo o senza spillo? Parto, scatto, pongo questo sentiero in montagna, vedo un cespuglio, evito i colpi, mi lancio e dietro il cespuglio ci sono 5 metri di vuoto e finisco sulla razza sottostante conciandomi in malo modo, ecco, insomma. Quindi fantozziana non in quanto contesto impiegatizio, fantozziana in quanto paradossale atto di totale incapacità di gestire il territorio che circonda, sia esso il corridoio di un'azienda, sia esso il cespuglio dell'attività dopolavoristica parrocchiale. Ci sentiamo, Fantozzi l'abbiamo commemorato abbastanza, rimarrà comunque, ahimè, dolorosamente inflitto le nostre esperienze quotidiane di relazione, di lavoro, di vita comune. Alla prossima.